In studio con me nel frattempo c'è Michele Migone che osserva, ascolta la diretta e osserva la cartina di Genova da lungo tempo. Michele? Sì, c'è un preciso, evidentemente un preciso piano per spezzettare il corteo in più appunto spezzoni e per poter intervenire. Questo piano, guarda caso, ancora una volta viene aiutato dalle mosse dei Black Bloc. Se si vede in questo momento e si guarda dall'alto la zona della città in cui c'è il corteo e si pensa alle zone di cui hanno parlato i nostri inviati, noi abbiamo la fine del corteo che ha, come dire, è bloccata dallo schieramento delle forze in Viale Piave che ha lanciato, se non erro, dei lacrimogeni. E questa parte del corteo arriva fino a Corso Italia, l'incrocio tra via Giuseppe Casaregis, là dove appunto, un pochettino più là dove ci sono gli scontri. Questi scontri sono stati provocati dai Black Bloc che da Piazzale Kennedy a Piazza Rossetti sono spostati progressivamente all'indietro, quindi verso i manifestanti, non verso la polizia, portandosi dietro la polizia. Black Bloc, come noi sappiamo, ancora una volta non sono stati fermati dalle forze dell'ordine oggi. Quindi la primo tentativo, che era intorno alle 14, non erro, di spezzare il corteo, che era parzialmente riuscito, in realtà non era riuscito perché il corteo è andato avanti, e allora questo secondo tentativo molto più forte in realtà sembra essere riuscito a spezzare il corteo. Quindi sul lungomare di Genova, come spiegavano i nostri inviati, c'è una sorta di trappola in questo momento. Siamo qui in Corso Torino, che sostanzialmente porta per tutto il mondo, c'è un folto schieramento di polizia, stanno sparando molti lacrimogeni, i manifestanti che erano prima della polizia sono scappati tutti in avanti a passo veloce, non c'è stato assolutamente panico, per fortuna, sono corsi molto velocemente, adesso sono rimasti qua con una cinquantina di ragazzi con volto coperto che stanno spostando qualche cosa in mezzo alla strada, come forse avete sentito, la polizia è a 500 metri nell'aria, ancora una volta, sempre in questo posto, lo stesso posto dove è ucciso caro Giuliani, ancora lanci di lacrimogeni. Andiamo avanti, la testa del corteo è arrivata, Giorgini ci parlava prima di Corso Torino, un'immensa moltitudine di persone che stava andando verso la testa del corteo, improvvisamente chiama Angelo Miotto e dice che all'altezza di via Torino, piazza Alimonta, sembra evidente un'altra volontà di spezzare il corteo in tre parti, e laddove non ci sono i Black Bloc partono chissà come mai improvvisamente i lacrimogeni sui manifestanti.